Capitolo 18 Giorni di primavera. Il ghiaccio della baia diventò nero e fradicio sotto i raggi del sole di marzo. In aprile l'acqua ritornò ad essere azzurra e impetuose onde dalla cresta bianca ritornarono a punteggiare il golfo. Il faro di Four Winds riprese a rischiarare il crepuscolo. Sono tanto contenta di rivederlo, disse Anna la prima sera della sua ricomparsa. Mi è mancato molto durante l'inverno. A nord-est il cielo era vuoto e triste. La terra indossava nuovamente la tenera veste di foglioline verde oro. Al di là di Glen, sui boschi, si stendeva una foschia color smeraldo. All'alba, le vallette rivolte verso il mare si riempivano di magiche nebbie. Venti sonori dal fiato salmastro si avvicendavano in continuazione. Il mare rideva, sfavillava, si pavoneggiava e lusingava come una donna bella e civettuola. Le aringhe formarono i banchi e il villaggio dei pescatori si ridestò. La baia si popolò di vele bianche dirette al canale. Le navi ripresero a entrare e uscire dal porto. In giornate di primavera come questa, disse Anna, so esattamente cosa proverà la mia anima il mattino della resurrezione? Certe volte a primavera sento che avrei potuto essere poeta se solo avessi incominciato da giovane, commentò il capitano Jim. Mi trovo a ripetere vecchi versi e strofe che declamava il maestro 60 anni fa. In altri periodi non mi vengono in mente. Ora mi verrebbe voglia di fermarmi sugli scogli in mezzo ai campi o in alto mare e snocciolarle tutte. Quel pomeriggio il capitano Jim era andato a portare ad Anna delle conchiglie per il giardino e un mazzo di giunco profumato trovato durante una passeggiata lungo le dune di sabbia. Ormai sta diventando davvero raro su questa costa, disse. Quando ero ragazzo io ce n'era in abbondanza, ma ora non si trova di frequente e mai quando lo si cerca. Ci si capita per caso, si cammina lungo le dune, senza lontanamente pensare al giunco, e a un tratto, paf, l'aria si riempie di profumo e ci si è in mezzo. Ho un debole per il profumo del giunco, mi ricorda mia madre. Le piaceva il giunco? Chiese Anna. No, che io sappia, forse non l'aveva mai nemmeno visto, ma la sua essenza ha un che di materno, di non troppo giovane, un che di maturo, sano e sicuro, proprio come una madre. La sposa del maestro lo teneva sempre tra i fazzoletti. Le consiglio di fare lo stesso, Madama Blythe. Non mi piacciono i profumi comprati, ma un tantinino di giunco profumato dove c'è una donna sta bene. Anna non era particolarmente entusiasta dell'idea di racchiudere le aiuole con conchiglie di quahog. Come primo pensiero non le erano sembrate un elemento decorativo attraente, però per nulla al mondo avrebbe offeso la sensibilità del capitano Jim. Così finse un entusiasmo che non sentiva e lo ringraziò calorosamente. E quando il capitano Jim ebbe finito di bordare le aiuole con le grandi conchiglie bianco latte, Anna si accorse con sorpresa che il risultato le piaceva. In un giardino di città o anche a Glen avrebbero stonato, ma nel giardinetto vecchio stile affacciato sul mare erano proprio quel che ci voleva. Stanno davvero bene, disse con sincerità. La sposa del maestro bordava sempre le aiuole con conchiglie di quahog, disse il capitano Jim. Aveva la mano felice per i fiori. Li guardava e li toccava in un modo e quelli venivano su una meraviglia. C'è gente che ha quel dono. Anche lei, a mio vedere, ne sembra dotata, Madama Blythe. Oh, non lo so, ma adoro il mio giardino e adoro lavorarci, armeggiare con verdi esseri viventi e osservare i germogli nuovi che spuntano. È un po' come partecipare alla creazione, mi sembra. Ora lì il mio giardino è come la fede, l'essenza delle cose sperate. Ma dia tempo al tempo e vedrà. È stupefacente guardare quei grinzosi semini marrone e pensare all'arcobaleno che hanno dentro, disse il capitano Jim. Meditando su quei semini non trovo per niente difficile credere che la nostra anima vivrà in un altro mondo. Se non avessi già visto il miracolo, mi sembrerebbe impossibile che ci sia la vita in quei cosini, a volte non più grandi di granelli di polvere, per non parlare del colore e dell'odore. Anna, che stava contando i giorni come grani di un rosario, Non poteva più fare la lunga passeggiata fino al faro e sulla strada per Glen, ma la signorina Cornelia e il capitano Jim venivano molto spesso alla casetta. La signorina Cornelia ravvivava l'esistenza di Anne e Gilbert. Dopo ogni sua visita ridevano a crepapelle nel ricordare le sue battute. Se capitava che si trovasse alla casetta con il capitano Jim, ascoltarle era davvero uno spasso. Ingaggiavano una guerra di parole, lei in attacco, lui in difesa. Una volta Anna rimproverò il capitano di esagerare nella provocazione. «Oh, ma io ci godo a farla andare su tutte le furie, Madame Blight», disse ridacchiando l'impenitente peccatore. «È il più gran divertimento della mia vita. Ha una lingua che farebbe sanguinare i sassi, non lo neghi. Lei e il dottore provate gusto quanto me ad ascoltarla». Un'altra sera il capitano Jim venne con del biancospino per Anna. Nel giardino regnava l'umida fragranza marina delle sere di primavera. La luna baciava il mare sfiorato da una nebbia lattea e sopra Glen il cielo era uno sfavillio argenteo di stelle. La campana della chiesa, al di là della baia, lanciava dolci e sonnolenti rintocchi. La calda melodia riecheggiava nell'imbrunire, fondendosi con il sommesso gemito primaverile del mare. Il bianco spino del capitano Jim aggiunse il tocco finale all'incanto della serata. «È il primo che vedo questa primavera e mi mancava», disse Anna, aspirandone il profumo. Non se ne trovava in tutta Four Winds. Cresce solo là, dietro Glen, dove la terra è arida. Oggi sono andato a zonzo, questo l'ho scovato per lei. A mio vedere è l'ultimo della stagione, perché è quasi sfiorito. Oh, lei è gentile e premuroso, capitano Jim. Nessun altro, nemmeno Gilbert, disse Anna, rimproverando il marito con un cenno del capo. Si è ricordato che a primavera non vedo l'ora di avere del biancospino. Beh, dovevo fare un'altra commissione. Volevo portare qualche trota al signor Howard che sta laggiù. Gli fa piacere di quando in quando e posso sdebitarmi solo così per il favore che mi ha fatto una volta. Sono rimasto tutto il pomeriggio a chiacchierare con lui. Gli piace parlare con me, anche se lui è un uomo molto istruito e io sono un vecchio marinaio ignorante. È una di quelle persone che se non parlano stanno male e qui attorno non trova molti ascoltatori. La gente di Glen lo evita perché lo crede miscredente. Non è arrivato a quel punto. Pochi ci arrivano, a mio vedere, ma è quel che si potrebbe definire un eretico. Gli eretici sono fuori legge, ma sono anche molto interessanti. È un po' come se rinunciassero a cercare Dio, perché hanno l'impressione che sia difficile trovarlo, il che non è vero. Prima o poi quasi tutti incappano in lui. Non credo proprio che ascoltare i ragionamenti del signor Howard possa farmi del male. Badi, io credo a quello che mi hanno insegnato. Tutta fatica in meno. E poi Dio è buono. Il guaio di Howard è che è un po' troppo intelligente. Crede di dover fare onore alla sua intelligenza e di dimostrarsi più brillante scoprendo una via nuova per arrivare in cielo, invece di seguire la vecchia strada della gente comune e ignorante. Ma prima o poi ci arriverà anche lui e riderà di se stesso. Intanto, per cominciare, il signor Howard era metodista, disse la signorina Cornelia, come se di lì all'eresia il passo non fosse troppo lungo. «Sai, Cornelia», disse tutto serio il capitano Jim, «ho pensato spesso che se non fossi presbiteriano mi farei metodista». «Oh, beh», disse la signorina Cornelia con il tono di chi fa una grande concessione, «se tu non fossi presbiteriano, beh, una confessione varrebbe l'altra». «A proposito di eresia, dottore, le ho riportato quel libro che mi ha prestato, Legge naturale nel mondo spirituale. Ne ho letto solo un terzo. Sono disposta a leggere cose sensate e cose senza senso, ma quel libro non contiene né le une né le altre». «In effetti è considerato piuttosto eretico in certi ambienti», ammise Gilbert, «ma gliel'ho detto prima di darglielo, signorina Cornelia». «Oh, non mi sarebbe importato che fosse eretico. Sopporto la malvagità, ma non sopporto la stupidità», disse la signorina Cornelia con la calma di chi ritiene di aver detto l'ultima parola sulla legge naturale. «A proposito di libri, Un amore folle è finito 2 settimane fa», disse il capitano Jim in tono pensieroso. Era arrivato a 103 capitoli. «Appena si sono sposati il libro si è finito e i guai sono svaniti. Almeno che succeda nei libri, se non può succedere davvero, no? Non leggo mai i romanzi, disse la signorina Cornelia. Sai come stava oggi Geordie Russell, capitano Jim? Sì, ho fatto un salto da lui tornando a casa. Si sta riprendendo bene, ma come al solito è in un mare di guai, pover'uomo. È vero che va a cercarseli da solo, però se li sopporta anche. Oh, è terribilmente pessimista, disse la signorina Cornelia. Beh, non è proprio proprio pessimista, Cornelia, piuttosto non trova mai niente che gli vada bene. E non è pessimismo questo? No, no, pessimista è chi si aspetta di non trovare niente che gli vada bene. Jordi non è ancora a quei punti. Oh, riusciresti a dire bene anche del diavolo, Jimmy Boyd. Beh, sai, la storia della vecchia signora che lo trovava perseverante. No, Cornelia, non so come potrei dire bene del diavolo. Ma ci credi? Chiese la signorina Cornelia in tono serio. Come puoi chiedermelo sapendo che sono un buon presbiteriano, Cornelia? Quale presbiteriano resisterebbe senza il diavolo? Ci credi o no? Insistette la signorina Cornelia. Il capitano Jim si fece a un tratto grave. Credo in quella che ho sentito definire dal pastore una forza del male potente, malvagia e intelligente che opera nell'universo, disse solennemente. Ci credo davvero, Cornelia, puoi chiamarla diavolo o fondamento del male o Satana o quel che vuoi. Però esiste e tutti i miscredenti e gli eretici di questo mondo non riusciranno a convincermi che non esiste, come non riusciranno a convincermi che non esiste Dio. Esiste e opera. Ma bada, Cornelia, credo che alla lunga avrà la peggio. Oh, lo spero davvero, disse la signorina Cornelia in tono poco convinto. A proposito di diavolo, per me Billy Booth è indemoniato. Hai saputo della sua ultima impresa? No, che cosa ha fatto? Ha bruciato di proposito il vestito marrone della moglie, quello nuovo, di stoffa fine, comprato a Charlottetown per $25 perché, a suo dire, gli uomini in chiesa l'avevano guardata troppo. Ah, tipico degli uomini. Madama Booth è davvero graziosa e il marrone le sta benissimo, rifletté il capitano Jim. Ma è una buona ragione per cacciare l'abito nuovo nella stufa della cucina? Billy Booth è un gelosone, fa passare alla moglie una vita d'inferno. Ha pianto tutta la settimana per quell'abito nuovo, poveretta. Oh, Anna, vorrei saper scrivere come te, credi a me, ne sistemerei tanti uomini di queste parti. Quei Booth sono tutti un po' strani, disse il capitano Jim. Billy sembrava il più normale, ma dopo sposato gli è saltata fuori questa mania della gelosia. Suo fratello Daniel invece è sempre stato un tipo bizzarro. Gli venivano spesso delle crisi di nervi e non voleva alzarsi dal letto, disse con soddisfazione la signorina Cornelia. Alla moglie toccava mandare avanti la fattoria finché non gli erano passate. Quando morì, la gente le scrisse lettere di condoglianze. Se le avessi scritto io l'avrei fatto per rallegrarmi. Il padre, il vecchio Abraham Booth, era un ubriacone disgustoso. Al funerale della moglie era ubriaco, non stava in piedi e diceva con voce impastata: Non ho bevuto molto, ma mi sento parecchio strano. Quando mi è venuto vicino, gli ho dato un bel colpo nella schiena con l'ombrello e si è calmato, finché la bara non è uscita di casa. Johnny Booth, il figlio, doveva sposarsi ieri, ma non ha potuto perché si è ammalato di orecchioni. Tipico degli uomini. Ma che può farci se si è preso gli orecchioni, poveretto? Oh, glielo darei io il poveretto se fossi Kate Stearns. Credi a me, non so se poteva fare a meno di prendersi gli orecchioni, ma so anche che il pranzo di nozze era bell'e pronto e prima che lui guarisca sarà tutto andato male. Che spreco! Di orecchioni doveva ammalarsi da bambino. Su, su, Cornelia, non ti sembra di essere un tantinino irragionevole? La signorina Cornelia non si degnò di replicare e si rivolse a Susan Baker, una zitella di mezza età, dalla faccia arcigna e dal cuore tenero, che da qualche settimana era venuta da Glen come donna tuttofare. Susan era stata al paese in visita ad una parente malata ed era appena rientrata. Come sta la povera zia Mandy questa sera? Chiese la signorina Cornelia. Susan sospirò: molto male, Cornelia. Mi dispiace dire che salirà presto in cielo. Poveretta, Oh, speriamo di no! Esclamò la signorina Cornelia in tono di commiserazione. Il capitano Jim e Gilbert si guardarono, poi si precipitarono fuori. A volte, disse il capitano Jim, torcendosi dalle risa, sarebbe proprio un peccato non ridere. Bei tipi, quelle due! Capitolo 19. Luce e ombra. Ai primi di giugno, quando un manto superbo di rose selvatiche rivestì le dune e una nube di fiori di melo avvolse Glenn, Marilla arrivò alla casetta, seguita da un baule nero con borchie d'ottone che da mezzo secolo riposava indisturbato nella soffitta di Green Gables. Susan Baker, che nelle settimane di permanenza nella casetta era arrivata a venerare la dottora giovane, come chiamava Anna, dapprima non vide Marilla di buon occhio. Ma poiché Marilla non cercò di interferire nelle faccende di cucina e non mostrò alcuna intenzione di contrastare le premure di Susan per la dottora giovane, la buona domestica finì per accettare la sua presenza e confidò alle amiche di Glenn che la signorina Cuthbert era una persona come si deve e sapeva stare al suo posto. Una sera, in cui la volta serena del cielo parve incendiarsi alla luce del tramonto, e i petti rossi animarono il crepuscolo dorato con inni di giubilo alle stelle serali, un'improvvisa agitazione si impadronì della casetta dei sogni. Vi furono telefonate a Glenn, il dottor Dave e un'infermiera con la cuffia bianca arrivarono in gran fretta, Marilla incominciò a passeggiare nervosamente lungo i vialetti del giardino, bordati di conchiglie, mormorando sommesse preghiere, e Susan restò seduta in cucina, con il cotone nelle orecchie e il grembiule tirato sulla testa. Leslie, dando un'occhiata fuori di casa, vide che tutte le finestre della casetta erano accese e quella notte non dormì. La notte di giugno fu corta, ma sembrò un'eternità a chi era in attesa. Oh, ma non finirà mai, disse Marilla. Poi vide il viso dell'infermiere e del dottor Dave e non osò fare altre domande. E se Anna... Oh, Marilla non osava nemmeno immaginarlo. Non mi dica, disse Susan. Con forza, rispondendo allo sguardo angosciato di Marilla, che Dio può essere tanto crudele da prendersi quel tesoro che amiamo tanto. Oh, ne ha presi altri ugualmente amati, disse Marilla con voce rauca. Ma all'alba, quando il sole sorgente squarciò le nebbie che gravavano sulla barra di sabbia e le trasformò in arcobaleni, la gioia discese sulla casetta. Anna era salva. E accanto a lei c'era una damina piccina piccina con gli occhi grandi della madre. Grazie a Dio, disse Marilla rabbrividendo. Gilbert, con la faccia grigia e tirata dalla veglia notturna, scese a dirlo a Marilla e a Susan, la quale si alzò e si tolse il cotone dalle orecchie. E ora facciamo un po' di colazione, disse con aria efficiente. Sono dell'opinione che metteremmo tutti volentieri qualcosa sotto i denti. Dica alla dottora giovane di non preoccuparsi di niente. C'è Susan che bada tutto. Lei deve pensare solo alla piccina. Gilbert si allontanò con un sorriso mesto. Anna, con il volto pallido, reso ancora più esangue dal battesimo del dolore e gli occhi accesi dal santo amore materno, non aveva bisogno che le si dicesse di pensare alla piccina, non pensava ad altro. Per qualche ora provò una felicità rara e suprema, chiedendosi se gli angeli del paradiso non stessero invidiandola. Ecco la piccola Joyce, mormorò quando Marilla andò a vedere la piccina. Avevamo deciso di chiamarla così, se era una femmina. C'erano tanti nomi che ci piacevano e non sapevamo quale scegliere, così abbiamo deciso per Joyce. Si può abbreviare in Joy, gioia, ed è proprio adatto. Oh Marilla, ho creduto tante volte di essere felice. Ora so che era soltanto una felicità sognata. La felicità vera era questa. Non devi parlare, Anna, aspetta di rimetterti, la esortò Marilla. Oh, sai che per me è un sacrificio non parlare, disse Anna con un sorriso. Dapprima era troppo debole e troppo felice per notare che Gilbert e l'infermiera erano seri e Marilla triste. Poi, sottile, fredda e spietata come una nebbia di mare, che dilaghi verso terra. La paura si annidò nel suo animo. Perché Gilbert non era contento? Perché non parlava della piccina? Perché non gliel'avevano lasciata dopo quella prima ora paradisiaca? C'era forse qualcosa che non andava? Gilbert! sussurrò Anna in tono implorante. La piccola! Sta bene, vero? Parla di qualcosa! Gilbert! Gilbert attese a lungo prima di voltarsi, poi si chinò su Anna e la guardò negli occhi. Marilla si era fermata in ansia fuori dalla porta. Udì uno straziante gemito di dolore e si rifugiò in cucina, dove Susan stava piangendo. Oh, povero angelo, come fa a sopportarlo, signorina Cuthbert? Ho paura che ne muoia. Stava così bene, aspettava con gioia il bambino e faceva un mucchio di progetti. Ma non c'è proprio niente da fare, signorina Cuthbert. Credo di no, Susan. Gilbert dice che non c'è speranza. Ha capito subito che la piccina non poteva vivere. Pensare che è tanto bella, disse Susan tra i singhiozzi. Non ho mai visto un neonato così bianco. Di solito sono rossi o gialli. E apriva già gli occhioni, quasi che avesse già qualche mese. Povera piccina e povera, povera la mia dottora giovane. Al tramonto, la piccola anima che era giunta all'alba sulla terra volò via, lasciando la disperazione dietro di sé. La signorina Cornelia ricevette la damina bianca dalle pietose mani professionali dell'infermiera e abbigliò il corpicino cereo con l'abitino confezionato da Leslie. Era stata la stessa Leslie a chiederlo. Poi la adagiò accanto alla madre, disperata e piangente. «Il Signore ce l'ha data e il Signore ce l'ha tolta, mia cara!» disse con gli occhi pieni di lacrime. «Benedetto sia il nome del Signore!» Poi si ritirò, lasciando Anna e Gilbert soli con la loro morticina. Il giorno seguente la piccola bianca Joy fu deposta in una bara foderata di velluto e preparata da Leslie con fiori di melo. Poi fu portata al cimitero della chiesa, dall'altra parte della baia. La signorina Cornelia e Marilla riposero gli abitini cuciti con tanto amore e la cesta adorna di pizzi e volant destinata a ospitare tenere membra e una testolina morbida. La piccola Joy non vi avrebbe mai dormito. Aveva trovato un letto più freddo e più stretto. È stata proprio una grande illusione per me, disse con un sospiro la signorina Cornelia. Aspettavo con ansia questa nascita e volevo una femmina. Ringrazio soltanto che Anna sia salva, disse Marilla con un brivido, ricordando le ore tremende in cui la ragazza che tanto amava aveva attraversato la valle dell'ombra. Povero angelo, è disperata, disse Susan. Eppure invidio Anna, sbottò a un tratto Leslie, e la invidio anche se fosse morta. È stata madre, anche se per un giorno solo. Darei volentieri la vita per questo. Non parlare così, cara Leslie, disse la signorina Cornelia con disapprovazione. Temeva che la compassata signorina Cuthbert potesse giudicarla male. La convalescenza di Anna fu resa più lunga e triste da molte cose. Sentiva la bella stagione esplosa a Four Winds quasi come un'offesa, ma se pioveva forte soffriva, immaginando la piccola tomba alla mercé degli elementi e nella voce del vento udiva mille lamenti. Erano una sofferenza anche le visite di condoglianze, le solite frasi di circostanza che volevano mascherare la cruda realtà. Ancora peggio fu una lettera di Phil Blake. Phil aveva saputo della nascita della bambina, ma non della sua morte, e le scriveva un'affettuosa e allegra lettera di felicitazioni che la ferì profondamente. Che bella risata mi sarei fatta se avessi avuto qui la mia piccina, disse a Marilla. Ma così mi sembra una crudeltà voluta, anche se so che Phil non mi farebbe mai del male di proposito. Oh, Marilla, non riuscirò più ad essere felice. D'ora in poi tutto mi farà soffrire. Oh, il tempo ti aiuterà a guarire, cara, disse Marilla, che partecipava profondamente al dolore di Anna, ma sapeva esprimersi solo con vecchie formule. Non mi sembra giusto, disse Anna ribellandosi. Sopravvivono bambini in case dove nessuno li vuole, dove cresceranno abbandonati a se stessi, senza possibilità. La mia piccina, io ero pronta ad amarla, ad allevarla con affetto, a darle la possibilità di riuscire bene. Eppure mi è stata tolta. È la volontà di Dio, Anna, disse Marilla, impotente davanti al mistero dell'universo, al perché del dolore inflitto a chi non lo merita. La piccola Joy sta meglio dov'è ora? Non ci credo! Esclamò Anna con angoscia. Poi, vedendo lo stupore di Marilla, aggiunse con impeto: E allora perché è nata? Perché tanti bambini nascono se poi stanno meglio quando muoiono? Non riesco a credere che sia meglio per un bambino morire subito dopo la nascita, anziché vivere tutta una vita, amare ed essere amato, gioire, soffrire, lavorare e sviluppare una personalità che gli darà un'impronta per l'eternità. E come puoi sapere che è stata la volontà di Dio? Forse è stata solo la vanificazione di un suo disegno da parte delle forze del male. Non si può pensare di rassegnarsi a questo, non si può. Oh, Anna, non parlare così, disse Marilla, allarmata, temendo che Anna scivolasse in acque fonde e pericolose. A noi non è dato capire, ma dobbiamo aver fede, dobbiamo credere nel suo operato. So che ti è difficile in questo momento, ma cerca di farti coraggio, fallo per Gilbert. È tanto preoccupato per te, non ti stai riprendendo come dovresti. Oh, so di essere stata molto egoista, disse Anna con un sospiro. Amo Gilbert più che mai e voglio vivere per amor suo, ma mi sembra che una parte di me sia scesa in quella piccola tomba dall'altra parte della baia. Sento tanto male che ho paura di vivere. Il male passerà poco a poco, Anna. Il pensiero che finirà di farmi male a volte mi fa ancora più male, Marilla. Sì, lo so. Anch'io l'ho provato in altre occasioni. Ma qui ti vogliamo tutti bene, Anna. Il capitano Jim è venuto tutti i giorni a chiedere di te. La signora Moore capita ogni momento e la signorina Bryant passa giornate intere a cucinare manicaretti per te. A Susan non va giù, come cuoca è convinta di non essere da meno della signorina Bryant. Oh, Susan è tanto cara. Oh, siete stati tutti tanto cari, buoni e affettuosi con me, Marilla. Non sono un'ingrata e forse quando questo terribile dolore diminuirà scoprirò di poter continuare a vivere.